Quarto giorno di Simone Spezia. È stato assegnato pochi istanti fa il premio Nobel per l'economia, va all'economista scozzese che insegna a Princeton, Angus Deaton, per le sue analisi sui consumi, la povertà e il welfare. Sono stati arrestati gli assassini di Coco, il bimbo di 3 anni ucciso e bruciato in un'auto nel 2014. Il nonno, che voleva pentirsi, lo usava come scudo. Oggi Ignazio Marino dovrebbe ufficialmente dimettersi, attesa per la scelta del commissario che guiderà la città fino al voto di primavera. ISIS, primo sospettato nell'attacco di Ankara, dice il governo. Secondo il premier è un attentato per influenzare le elezioni, sarebbe vicina all'identificazione degli autori. Parte la quotazione di Poste Italiane, 40% sul mercato entro fine mese. Presentata oggi l'operazione, confermiamo le 8.000 assunzioni, dice l'amministratore delegato Caio. I primi dettagli sulla quotazione di Ferrari a Wall Street. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Tra un attimo andremo a parlare del Nobel per l'economia, come vi dicevamo, la notizia appena arrivata e come sentivate nei titoli, il premio Nobel va ad Angus Deaton, che è un professore scozzese che insegna all'Università americana di Princeton, proprio per i suoi studi appunto sul welfare, sulla povertà e sui consumi. Ci arriveremo tra un attimo, alle 13.15 avremo un approfondimento proprio su questo, ma intanto in apertura andiamo sulla cronaca con la vicenda di Coco, il bambino di 3 anni che fu ucciso insieme al nonno e alla compagna in Calabria. Questa mattina i suoi assassini, o presunti tali, sono stati arrestati e nuovi particolari emergono sull'inchiesta. Erano in due quel giorno, hanno bloccato la macchina, hanno sparato e poi hanno dato fuoco alla Punto Grigia per cancellare qualsiasi impronta. Giuseppe Iannicelli, esponente di spicco della cosca andranghetista della Sibaritide, era seduto al posto di guida, accanto a lui la giovane compagna tunisina, dietro Nicola Campolongo, 3 anni, che a tutti diceva di chiamarsi Coco. Di Iannicelli era il nipote, viveva con il nonno da quando i suoi genitori erano stati arrestati. Centinaia gli incroci e i riscontri che hanno portato la DDA e i carabinieri a individuare in Donato Cosimo e Faustino Campilongo i due assassini. Volevano scavalcare Iannicelli, volevano controllare il traffico di droga, così il comandante dei ROS, generale Governale. Era sparsa la voce che questo Iannicelli potesse collaborare con la giustizia. Probabilmente anche questi due arrestati volevano sostituirlo nella conduzione della gestione del traffico di stupefacenti, che è rilevante. Gli inquirenti sottolineano la connotazione mafiosa del triplice omicidio e la efferatezza. È probabile che Iannicelli temesse per la sua vita. Il nipotino, che per lui poteva anche rappresentare un'assicurazione sulla vita, non avrebbe mai immaginato che potessero ucciderlo in presenza di un bambino. Invece non solo hanno ucciso 3 persone, le hanno addirittura bruciate. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E anche su questo torneremo più avanti nella seconda parte della trasmissione, intorno alle 13.30. Veniamo a Roma, il giorno nel quale Ignazio Marino dovrebbe dimettersi da sindaco, formalizzare il suo addio. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così, Simone, il giorno delle dimissioni è arrivato, Ignazio Marino dovrà rassegnarle, diventerà ufficialmente sindaco dimissionario, il 2 novembre decadrà la sua carica se le dimissioni saranno confermate. Dopo la crisi sono arrivati i sostenitori di Marino, che hanno manifestato anche in Campidoglio, e nel PD c'è chi sospetta che l'ex chirurgo possa decidere di ricandidarsi con una lista civica, tanto che sono state raccolte più di 45.000 firme per il ritiro delle dimissioni. Anche alcuni VIP sono con l'ex sindaco, come Sabrina Ferilli e Alessandro Gasman. Intanto il prefetto Franco Gabrielli ostenta tranquillità e risponde che Roma è una città che sta in piedi da più di 2.000 anni, il premier Matteo Renzi non esclude le primarie PD per Roma, comunque tra Marino e la città si era rotto il rapporto, dice, frena su Alfonso Sabella come commissario, è bravo ma ce ne sono di altri. L'ex assessore alla legalità e magistrato si dice disponibile come servitore dello Stato a ruoli tecnici e non politici, e la squadra di 8 vice commissari dovrà essere dotata, dice Sabella, di dirigenti capaci, la città ha bisogno di una macchina amministrativa efficiente. Poi c'è un'ultima curiosità, c'è un sit-in a Sant'Andrea delle Fratte, la sede del PD, proprio per protestare sulle dimissioni di Marino. A te, Simone. Grazie Elisabetta Ferrito per questo aggiornamento. Ci spostiamo all'estero adesso per parlare di Turchia, dopo l'attentato che ha colpito la stazione della capitale Ankara, dove si stavano radunando centinaia di attivisti di sinistra per chiedere che si fermassero le ostilità tra il governo e il partito curdo PKK. Più di 90 le vittime secondo l'esecutivo, mentre il PKK stesso parla di 128. L'esecutivo avrebbe identificato i responsabili di quest'attentato, ma anche su questo, su chi sia stato davvero, c'è scontro con l'opposizione. In diretta da Istanbul Marco Barbonaglia. Buongiorno Marco, dacci un quadro. Buongiorno Simone, l'ISIS dunque, il principale indiziato per l'attentato di sabato ad Ankara, la conferma arriva direttamente dal premier Ahmed Davutoğlu, anche se fino ad ora, va detto, non c'è stata nessuna rivendicazione. In un'intervista al canale NTV questa mattina comunque il primo ministro ha dichiarato che i responsabili dell'attacco sono stati due attentatori suicidi e che gli inquirenti stanno lavorando ai test del DNA. Siamo vicini, aggiunto, ad un nome e quindi a scoprire il loro gruppo, molto probabilmente lo Stato Islamico. Le parole del primo ministro arrivano dopo il sospetto diffuso ieri dal quotidiano Habertürk, che aveva detto che uno dei responsabili dell'attacco potrebbe essere il fratello del kamikaze di Surut, un'ipotesi che se venisse confermata mostrerebbe perlomeno delle falle preoccupanti nella sicurezza turca. Nel frattempo, è sempre notizia di questa mattina, la polizia ha parlato di una vasta operazione contro militanti dell'ISIS o uomini collegati all'organizzazione terroristica in Turchia, che è stata lanciata ieri, una serie di blitz in varie parti del paese, dalla provincia di Antalya a quella orientale di Şanlıurfa, dalla zona di Izmir a quella anatolica di Konya, che hanno portato complessivamente all'arresto di almeno 50 sospetti. Da Istanbul è tutto, ti restituisco la linea. Grazie Marco Barbonaglia, anche a te per questo aggiornamento. Le forze aeree russe hanno compiuto nelle ultime 24 ore in Siria 55 uscite contro 53 obiettivi dell'ISIS. Questo è quello che riferisce Igor Konoshenko, che è il portavoce del Ministero della Difesa. Gli attacchi avrebbero riguardato le province di Homs, Hama, Latakia e Idlib. Intanto c'è incertezza sulla sorte del capo del califfato al-Baghdadi, che sarebbe sfuggito ad un raid su un convoglio. Secondo fonti di intelligence, Abu Bakr al-Baghdadi sarebbe stato ferito nel bombardamento iracheno di sabato scorso. A sostenerlo il Baghdad Information Center, una fonte di intelligence fondata da Russia, Iran, Iraq e Siria. Il leader del califfato si trovava a bordo di una delle vetture bersagliate dal raid, mentre era in viaggio verso la città di Karabla, insieme ad altri capi dell'ISIS. Tre fra questi sarebbero morti. Si parla del georgiano Omar al-Shishani, comandante dei Foreign Fighters, e di Saed al-Karbouli, fedelissimo comandante militare. Le autorità irachene avevano già dato più volte la notizia della morte o del ferimento di al-Baghdadi, senza che queste venissero mai confermate. In questo caso, l'unica notizia accertata è che il leader del califfato non resta fra le vittime del raid. Alberto Battaglia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ci spostiamo ancora una volta e anche oggi sugli scontri tra israeliani e palestinesi. Tra questa mattina a Gerusalemme c'è stato un altro episodio, un altro tentato accoltellamento ai danni di un israeliano ed è morto l'assalitore palestinese. Saluto Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore. Ugo, buongiorno e bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Ugo, che cosa dobbiamo aspettarci in termini di escalation secondo te? Ma non credo nulla di particolare, naturalmente, al netto di quello che sta succedendo ora, che è già di per sé una tragedia, però dal punto di vista né del confronto fra israeliani, governo israeliano, autorità palestinese e Hamas, né sul quadro geopolitico regionale, credo che questa vicenda, questa piccola intifada possa avere qualche effetto. Credo che vedremo ancora per molto tempo queste piccole cose, cioè dei ragazzi disperati che non hanno futuro, chiusi nella loro gabbia dell'occupazione, che prendono dei coltelli e fanno operazioni suicide. Se non ci fosse il muro costruito dagli israeliani, che ha rubato altra terra ai palestinesi, ma comunque se non ci fosse questo muro probabilmente vedremo invece attentati suicidi ancora col tritolo, e questo appunto non è più possibile. Quindi sarà questa cosa a bassa intensità, a meno che non scoppi qualcosa di estremamente grave. Sarebbe un gravissimo errore da parte israeliana, per esempio, rioccupare, come si fece nella seconda intifada, rioccupare interamente militarmente la Cisgiordania, perché di fatto già la controllano, già hanno l'aiuto della polizia e dell'autorità militare palestinese, e ultimo ma non meno importante, questa non è un'altra vera intifada. Grazie ad Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, per questo punto su quello che accade in Medio Oriente. Passiamo alla politica economica italiana. Rinviato l'intervento sulle pensioni, lo ha sostanzialmente ufficializzato ieri il Presidente del Consiglio Matteo Renzi in un'intervista che tempo che fa di Fabio Fazio. Il governo sembra concentrato sul taglio delle tasse sulla casa e sulle imprese. Un punto di oggi con Vincenzo Miglietta. Vincenzo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. Partiamo allora dalle pensioni. Brevemente, il governo prende tempo, la flessibilità in uscita slitta al 2016, ha annunciato il Presidente del Consiglio Renzi quando i numeri saranno chiari. Intervenire troppo rapidamente entro quindi i termini della legge di stabilità, ha chiarito il Premier, potrebbe risultare un danno perché attuato senza saggezza e senza cifre chiare. È necessario, Simone, ricordare che a parlare di flessibilità nelle pensioni, nella manovra, era stato proprio Palazzo Chigi con gli interventi circa due settimane fa dei ministri Padoan e Poletti proprio in Commissione Bilancio. Evidentemente qualcosa è cambiato. A questo punto sarà interessante vedere se nella legge di stabilità si troverà una soluzione all'altro tema legato sempre alla previdenza, ovvero quello degli esodati. Più in generale, la manovra da 28 miliardi attesa nel Consiglio dei Ministri di giovedì dovrebbe contenere importanti novità sul fronte fiscale, la casa con l'addio a Tasi ed IMU sulla prima abitazione, poi IRES e i cosiddetti superammortamenti per chi investe in azienda e la probabile trasformazione del bonus da 80 euro da spesa a sgravio fiscale. Sul fronte delle risorse, intanto, oltre ai risparmi di spesa, si lavora con Bruxelles per avere il via libera alla flessibilità sul deficit, che libererebbe circa 17 miliardi. Al momento la Commissione europea dovrebbe autorizzare l'utilizzo per investimenti e riforme, ma non per la parte sui migranti. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie anche a te Vincenzo Miglietta. Restiamo sull'economia per due operazioni di quotazione in borsa che vengono presentate oggi. Il 40% di Poste Italiane sarà collocato sul mercato italiano, mentre arrivano i dettagli del collocamento di Ferrari a Wall Street. Dunque è partito il collocamento di Poste Italiane, iniziamo da qua, che a fine mese sbarcherà Piazza Affari. Chi vorrà prenotare le azioni avrà tempo fino al 22 ottobre, dovrà comprare almeno 500 titoli a un prezzo compreso fra 6 e 7 euro e mezzo. Chi terrà i titoli per un anno avrà diritto ad un bonus, una azione gratis ogni 20 acquistate, una ogni 10 per i dipendenti. A questi ultimi è riservata una parte dei titoli, poco più del 3%, che finiranno in borsa e per acquistarli potranno usare il TFR. Sentiamo qualche dettaglio nell'intervista di Anna Marino all'amministratore delegato di Poste, Francesco Caio. Oggi partiamo con lo show e la data per la chiusura, e quindi l'apertura, la chiusura dello show e l'apertura della trattazione del titolo è il 27. Penso che però sia un giorno importante oggi per fare anche un po' una considerazione di tipo più generale. Questo IPO, che è l'IPO più grande d'Europa, che oggi è un IPO italiano, di un'azienda pubblica italiana, è anche un giorno in cui l'Italia è al centro dell'interesse degli investitori internazionali. Prospettive di collocamento anche tra i privati e poi diciamo i fondi indirizzati anche allo Stato, quanto arriverà nelle casse dello Stato? Le cifre vedremo, le stabilirà il mercato. È importante che lo Stato abbia confermato in tempi molto rapidi e portato sul mercato un'operazione che riguarda fino al 40% del capitale di Poste. Quindi una cifra importante che lo Stato utilizzerà per l'abbattimento del debito, ma come il governo stesso ha indicato, un'operazione che ha un significato segnaletico nei confronti della comunità internazionale. E tra l'altro l'amministratore delegato di Poste Italiane Caio ha confermato le 8.000 assunzioni. Veniamo invece a Ferrari. Un anno fa, il 13 ottobre 2014, la campanella di Wall Street, che sentite in sottofondo, suonava per il debutto di Fiat Chrysler. Tra poco la stessa campanella accompagnerà lo sbarco in borsa della Russa di Maranello, una quotazione destinata in prima battuta agli investitori americani, solo a quelli specializzati che potranno acquistare le azioni prima dell'esordio. 17-18 milioni di titoli, pari al 10% del capitale, a un prezzo compreso tra 48 e 52 dollari, dipende come andrà il collocamento. Una volta sul mercato, entro fine ottobre, tutti gli amanti del cavallino rampante potranno andare in banca e comprare le azioni, che poi forse, tra qualche mese, arriveranno anche a Piazza Affari. Al momento non è dato saperlo. Quello che è certo è che nel 2016 i titoli Ferrari finiranno direttamente in mano agli azionisti della casa madre Fiat Chrysler, la famiglia Agnelli tramite Xor, Piero Ferrari e tutti quelli che hanno titoli in portafoglio. In sostanza, chi oggi compra azione FCA, l'anno prossimo ogni 10 ne riceverà una Ferrari, società di lusso da oltre 2 miliardi di fatturato e una holding olandese creata per l'occasione. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie principali di oggi: la cronaca in primo piano con l'arresto degli assassini di Cocò, il bimbo di 3 anni ucciso e bruciato in un'auto nel 2014 in Calabria. Il nonno, legato alla criminalità, voleva pentirsi e lo usava come scudo, e forse l'assassinio è avvenuto proprio per quello. Oggi Ignazio Marino dovrebbe ufficialmente dimettersi, attesa per la scelta del commissario che guiderà la città fino al voto di primavera. ISIS è primo sospettato per l'attacco di Ankara, dice il governo. Secondo il premier è un attentato per influenzare le elezioni, sarebbe vicina l'identificazione degli autori, ma secondo l'opposizione turca sarebbe sostanzialmente una strage di Stato. Parte la quotazione di Poste Italiane, il 40% sul mercato entro fine mese, presentata oggi l'operazione, confermate le 8.000 assunzioni. E veniamo, come si diceva, all'assegnazione del Nobel per l'economia, che è arrivata poco fa, intorno alle 13, ve l'abbiamo dato come nostro primo titolo perché la notizia fresca. Chi l'ha vinto è Angus Deaton, che è un economista scozzese che insegna a Princeton, che si occupa di povertà, di disuguaglianze, di welfare e anche di consumi. Per capire chi è questa figura di studioso, abbiamo in linea con noi Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Fabrizio, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno a tutti. Che cosa rappresenta il lavoro di Deaton? Il lavoro di Deaton rappresenta un felice sposalizio, possiamo dire, fra economia, econometrica e socialità, e studio della... Rappresenta una evidenza ulteriore del fatto che l'economia sia aperta alle scienze sociali, sia aperta alla psicologia, sia aperta alla sociologia, sia aperta all'antropologia. E lui, pur essendo di formazione un matematico, ha detto che ha abbracciato l'economia per scappare dalla matematica. Lui si è chinato soprattutto sul problema della misurazione dei fenomeni e sulla possibilità di darne un'interpretazione diversa da quella solita. Per esempio, un paradosso che lui ha trovato è quello relativo alla malnutrizione in India. Tutti sappiamo che gli indiani sono poveri, anche se stanno crescendo rapidamente negli ultimi tempi, ma la cosa strana è che pur crescendo il PIL pro capite, pur crescendo il benessere relativo degli indiani, sembra che il consumo di calorie sia andato diminuendo, il che appunto sembra una cosa strana. E lui si è chinato su questo problema con una serie di misure e di misurazioni, diciamo, e alla fine ha deciso che il paradosso si spiegava con il fatto che il lavoro fisico pesante che richiede un gran consumo di cereali per rifornire, diciamo, la macchina umana che lavora a tutto spiano, ecco, allora questo consumo di cereali, che sono molto intensi nelle calorie, ha fatto sì che il numero di calorie sia andato diminuendo, forse erano, diciamo, calorie cattive e calorie, ci sono calorie cattive e calorie buone. Sembra una curiosità, però spesso le sue intuizioni, la sua capacità di andare oltre l'apparenza dei fenomeni e spiegarli e misurarli ha portato a cambiamenti nelle politiche agricole, nelle politiche economiche. Lui ha una storia affascinante, una storia personale affascinante, ha incontrato molti altri premi Nobel della sua vita, da Simon Kuznets, a James Mead, a Daniel Kahneman e anche a Richard Stone, e si vede in questi casi come tutto sia più della somma delle parti, cioè quando si entra in un ambiente intellettuale in cui si scambiano umori, ci si scambiano intuizioni, ci si scambiano analisi, ecco che tutto questo si gonfia a dismisura e diventa uno stimolo sempre più forte per l'analisi e per le scoperte, le intuizioni scientifiche. Fabrizio, secondo te che cosa hanno voluto premiare gli accademici di Stoccolma? Cosa hanno voluto premiare con questo Nobel? Io direi che hanno voluto premiare qualche cosa che è oggi sulla bocca di tutti, cioè il problema delle disuguaglianze, il problema della povertà, il problema della crescente disparità fra i ricchi e i poveri. Ecco, hanno voluto premiare un economista come Deaton, che fra l'altro si è ritornato all'India, si è occupato molto anche dell'India. Hanno voluto premiare un economista che si è sporcato le mani con i problemi della povertà, con i problemi della disuguaglianza, e quindi non un economista, diciamo, nella Torre d'Avorio, ma un economista che è sceso nell'ospedale da campo di questo tempo e di questo mondo. Quindi questo, e ci dicevi, ultimo elemento che ti chiedo, Fabrizio, è interessante quindi il lavoro che ha fatto, dicevi, incrociando una serie di discipline, pur avendo una formazione da matematico, ha incrociato una serie di discipline, che è un po' la tendenza, no? di molti economisti. Sì, certo, diventa anche quel filone, insomma, che ormai conosciamo, della cosiddetta economia comportamentale, in cui l'homo economicus viene visto sempre più come una costruzione astratta, e si viene visto come l'agire concreto dell'economia risponde a pulsioni che vanno molto al di là della razionalità dei libri di testo. Grazie a Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore, per averci aiutato a fare un punto sul premio Nobel dell'economia, che appunto è lo studioso scozzese Angus Deaton, che insegna a Princeton. Allora, nella prima parte della trasmissione vi abbiamo fatto sentire l'intervista all'amministratore delegato di Poste Italiane, Francesco Caio, in merito alla quotazione. Poi, nel frattempo, come vi accennavamo anche nei titoli, Caio ha parlato anche della conferma del piano da 8.000 assunzioni. L'ha fatto proprio su domanda della nostra Anna Marino, che è riuscita al volo ad inviarci una voce. Sentiamola. La privatizzazione è un passaggio importante nello spirito e nella tradizione di Poste Italiane. È un'operazione che crea valore per i cittadini, per i dipendenti, e che dà un orizzonte di sostenibilità, di crescita e di sviluppo a un'impresa che non rinuncia alla sua missione sociale, ma che fa del mercato la misura delle cose che facciamo. Grazie. Riguardo alle assunzioni, anche 8.000 assunzioni? Le confermiamo e abbiamo già avviato, perché servono per modificare nel tempo, rafforzandolo, il profilo professionale per servire al meglio i cittadini. Così dunque Francesco Caio, amministratore delegato di Poste Italiane. Noi adesso ci fermiamo, andiamo proprio a sentire quello che succede in borsa in queste ore, e poi ci ritroviamo e approfondiremo la nostra notizia di apertura, l'arresto per gli assassini di Cocò, il bimbo di 3 anni che fu ucciso nel 2014 mentre era in macchina con il nonno in Calabria. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: gli arresti per gli assassini di Cocò, il bimbo di 3 anni ucciso e bruciato in un'auto nel 2014, 2 persone sono state arrestate accusate di essere gli assassini, il nonno che voleva pentirsi lo usava come scudo. Oggi Ignazio Marino dovrebbe ufficialmente dimettersi, è attesa la scelta del commissario che guiderà la città fino al voto di primavera. Le forze aeree russe hanno compiuto nelle ultime 24 ore in Siria 55 uscite contro 53 obiettivi dell'ISIS, lo riferiscono le forze armate. E dell'ISIS il primo sospettato per l'attacco di Ankara, questo almeno secondo il governo e secondo il premier, è un attentato per influenzare le elezioni. Parte la quotazione di Poste Italiane, il 40% sul mercato entro fine mese. La borsa. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta Borse in diretta. Ed è una giornata, quella di oggi, negativa, con il FTSE MIB che cede lo 0,43% e gli altri indici, abbiamo un piccolo problema tecnico, gli altri indici che vedono con il FTSE All Share in calo dello 0,46%. Isabella Tasso, Radio Corriere Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. A cosa dobbiamo i ribassi di oggi? Ma le borse, come dicevi, sono tutte leggermente negative, con l'eccezione di Francoforte che è poco sopra la parità verità, secondo gli operatori, i listini riprendono fiato dopo il buon recupero della scorsa settimana in assenza di spunti di rilievo. Ricordiamo che Piazza Affari la settimana scorsa aveva recuperato un buon 4%. Dicevamo va un po' meglio Francoforte, dove sono in forte rialzo due titoli, RVE ed E.ON, che sono in rialzo rispettivamente del 13 e del 10%, dopo che il Ministero dell'Economia tedesco ha affermato che gli operatori delle centrali nucleari hanno raccolto fondi a sufficienza per finanziare la chiusura dei reattori. Ecco che i due titoli salgono e Francoforte fa un po' meglio degli altri mercati. Singoli titoli a Milano? Piazza Affari, i riflettori sono puntati su Fiat Chrysler, che fa più 1,6% grazie all'avvio dell'operazione di collocamento a New York del 10% di Ferrari, per un valore compreso fra i 906 e i 980 milioni di dollari. In rialzo dell'1,7% Ubi, questo dopo l'ok dei soci alla trasformazione in SPA nell'assemblea di sabato. Saipem cede invece l'1,8% dopo nuove indiscrezioni sul riassetto. Giù anche Mediaset, meno 2,3%, dopo che gli analisti di Goldman Sachs hanno tolto il titolo dalla propria lista dei preferiti. Grazie Isabella Tasso, Radio Corriere Sole 24 Ore, buona giornata. Buona giornata. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E oggi purtroppo abbiamo pochi spazi, però vogliamo affrontare brevemente ancora la vicenda della nostra notizia di apertura, ossia l'arresto dei due assassini, presunti assassini di Cocò, il bambino di 3 anni ucciso e bruciato in un'auto nel 2014 in Calabria. Dice il procuratore nazionale antimafia Francesco Roberti, una barbarie, e non parlando solamente dell'assassinio. Roberto Gallullo, ti saluto, buongiorno del Sole 24 Ore. Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Ma parlando anche del fatto che il nonno Giuseppe Iannicelli lo usava sostanzialmente come uno scudo. Sì, questo qui è quanto emerge dalle dichiarazioni rese oggi dagli investigatori del ROS dei Carabinieri. C'è poco da dire se non trovarsi di fronte ad una realtà davvero amarissima. Il traffico di sostanze stupefacenti, che sembra essere appunto alla base di questo triplice omicidio, consente tutto. Vale a dire consentirebbe, se ovviamente delle indagini saranno dimostrate anche in sede processuale fino all'eventuale terzo grado di giudizio, consente che un nonno possa usare un nipote per farsi scudo, per pensare di essere intoccabile, quindi non avvicinabile. Ma è un qualcosa che non può comunque reggere, perché il traffico di sostanze stupefacenti porta con sé una tale dote di ricchezza che ogni gioco è lecito e possibile, compreso quindi quello di un omicidio, che può essere anche incidentale, di un bambino di appena 3 anni. Ti ringrazio, grazie a Roberto Gallullo del Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, c'è come ogni lunedì Mario Platero, lievemente anticipato, ci ritroviamo tra poco. Arrivano aggiornamenti sulla vicenda di al-Baghdadi, il leader dell'ISIS. Non è né tra i morti né tra i feriti di un raid compiuto dall'aviazione irachena su un convoglio nell'ovest del paese, lo hanno detto oggi fonti mediche locali. Vedremo se ci saranno aggiornamenti anche su questo. Intanto il traffico, la nostra rubrica sugli autotrasporti, e ci troviamo alla fine per i saluti.